America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Real disappointment on the GDP numbers, down 2.9% for the first quarter. Contrazione, primo trimestre, meno 2.9%. Beh, questa è la notizia che ha dominato la mattinata di ieri, ha preoccupato molti. Cari ascoltatori, sono qui a rassicurarvi, molti mi criticano, dicono che io sono troppo ottimista per l'economia americana, ma posso dirvi che le stime, per coloro che se ne intendono, sono per una crescita vicina o superiore addirittura al 3% per il secondo trimestre. L'economia dunque dovrebbe riprendersi piuttosto bene, anche per questo la borsa ieri ha tenuto bene, anzi sono stati dei leggeri aumenti per tutti e tre gli indici. Aggiungo, ve lo raccontavo ieri, nella trasmissione di ieri, ci sono nuove frontiere che si stanno superando, l'America esporterà petrolio, nuove produzioni tecnologiche, insomma il paese di fondo resta sano e resta un paese dove molti vogliono continuare a venire, forse troppi. I spoke to one kid who was about 12 or 13 who spent days climbed on top of a freight train, a boxcar. Il segretario Jen Johnson, lo avete sentito, segretario per la sicurezza nazionale, è andato in audizione ieri, prima alla Camera, prima in commissione per la sicurezza nazionale, poi in commissione giustizia, per parlare di un problema gravissimo, un problema che devo dire sta assumendo dimensioni veramente preoccupanti, è quello cioè dell'immigrazione illegale di bambini. E c'è una interpretazione sbagliata di quello che prevede la bozza della legge sull'immigrazione messa a punto dall'amministrazione Obama. Cioè, Obama a un certo punto dice: tutti i bambini che sono cresciuti nelle scuole americane e che hanno fatto tutte le loro scuole qui, che magari sono nati anche fuori, ma sono così da quando erano piccoli, quando avevano 2 anni, 3 anni, ma che hanno studiato nel sistema americano, beh, bisognerà fare una specie di amnestia, perché questi sono americani, sono parte del tessuto, hanno i loro compagni, sono sempre stati qui. Allora che succede? Che una gran quantità di famiglie sudamericane, centroamericane, hanno cominciato a mandare i loro bambini di 11-12 anni in America da soli, nella speranza che potessero passare il confine, iscriversi in qualche scuola e far finta di essere lì da alcuni anni o comunque rientrare in questa categoria. Insomma, l'operazione è triste e disastrosa, preoccupante e soprattutto drammatica. Perché? Perché questi bambini viaggiano da soli, pensate, 11 anni, 10 anni, 12 anni, vengono abbandonati dai genitori a una certa postazione di confine, messi nelle mani di questi contrabbandieri di persone, i quali purtroppo, molto spesso se ne approfittano. Le bambine spesso vengono stuprate, vengono avviate alla prostituzione, i ragazzini anche, insomma sono delle storie davvero davvero drammatiche. Pensate ai numeri, 52.000 bambini sono stati fermati alla frontiera mentre da soli stavano cercando di passare il confine, questo soltanto dallo scorso ottobre, 90.000 bambini complessivamente, la stima questa della Casa Bianca, hanno attraversato il confine o attraverseranno il confine tra l'ottobre del 2013 e il settembre del 2014. 463 di questi bambini sono morti mentre cercavano di attraversare il confine. Ecco, di questo, oltre all'audizione di Jeff Johnson, oltre a Mike Rogers, oltre a Jeff Duncan, deputato della Carolina del Sud, se ne è occupato il vicepresidente Biden. Biden, lo ricorderete, ve l'ho raccontato, quando era andato in Brasile per l'avvio della Coppa del Mondo, aveva avuto poi degli incontri politici e si era fermato sulla via del ritorno, in particolare in Guatemala, dove ha sollevato questa questione. È stato lui il primo la settimana scorsa a denunciare pubblicamente questa cosa, poi le audizioni alla Camera e alla fine un problema con cui bisognerà confrontarsi. Sentiamo per tutte la storia di Carlos Javier López. Lo ponen a estudiar y después lo ponen a trabajar en Estados Unidos, no lo deportan para acá. Ecco, Carlos Javier López, 17 anni, dall'Honduras. Mi hanno detto che ti lasciano studiare a lavorare negli Stati Uniti, che non ci sono problemi e non ti deportano. E invece, come lui, altri 26.000 ragazzi sono stati catturati alla frontiera nella valle del Rio Grande in Texas, sono stati arrestati, hanno passato un mese in un centro federale per poi essere spediti. In questo caso gli è andata bene, in in particolare a Carlo Javier López, dalla madre in Virginia l'estate scorsa. Ma altri restano a metà del guado, devono tornare in tribunale, è difficile deportarli, un sistema intasato con oltre 366.000 casi, e Biden in particolare, ve l'ho detto la settimana scorsa, ha promesso un centinaio di milioni di dollari per finanziare programmi che riducano le violenze in America Centrale. Sono stati stanziati 25 milioni di dollari per costruire centri giovanili nel Salvador e 18 milioni per l'Honduras. Il problema resta, la legge per l'immigrazione non è stata passata, io trovo che sia una manifestazione di incoscienza, addirittura di inciviltà da parte dei politici americani che preferiscono il muro contro muro pensando alle elezioni del 2014 del novembre, invece di passare una legge che ha bisogno di fare chiarezza e di regolarizzare posizioni per, pensate, 12 milioni di immigrati illegali in America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di immigrazione, abbiamo parlato di giovani che arrivano dal sud, che arrivano south of the border, al di sotto dei confini meridionali, e dunque volevo proporvi questa canzone straordinariamente romantica che diventa struggente se pensiamo a quella che è la realtà di oggi per i giovani south of the border, di Gene Autry, South of the Border, Down Mexico Way. There in a veil of white by candlelight she knelt to pray, but the mission bells told me that I mustn't stay. South of the border, down Mexico way. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta con un Go America, Stati Uniti, Germania, per la prima volta in molti tornei gli Stati Uniti potrebbero passare agli ottavi di finale, basta un pareggio. Goodbye and get going. America 24.